Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei segnalare una questione che, sebbene non possa essere definita fatto del giorno, desta in me profondo stupore e rammarico. Il tema è quello della sicurezza, e mi riferisco all'impressionante escalation di furti in appartamento che sta avvenendo in Versilia in questi giorni. Nella notte di sabato scorso, ignoti penetravano nella porzione di villa bifamiliare a Marina di Pietrasanta che occupavo con la famiglia per il ponte del 2 giugno, disattivando l'antifurto perimetrale che la proteggeva e svaligiando la casa intanto che noi occupanti stavamo dormendo. Il giorno dopo scopro che identica sorte era capitata ad altri amici che abitano qualche isolato più in là, e oggi, invece, vengo a conoscenza che anche altri amici subivano lo stesso reato in quel di Forte dei Marmi. Tengo a precisare che sia io che le poche altre persone che conosco e che frequentano la zona siamo persone normali. Non guido una Bentley, ma un'auto vecchia di 6 anni, non porto un orologio di marca tempestato di diamanti e vivo in una modesta porzione di villa bifamiliare. E come me, le altre persone che conosco. Prova ne è lo scarso bottino, nel mio caso 150 euro in contanti, un orologio giapponese del valore di pochi euro e la mia fede nuziale. Mi reco alla stazione dei carabinieri per sporgere denunzia e vi apprendo che nella Versilia intera episodi di tal fatta sono più che all'ordine del giorno. Scopro inoltre, in modo ancor più sconcertante, che l'organico dell'arma è costituito da sole 7 persone. Risposta non dissimile ricevevano i miei amici che, invece, si erano recati alla Polizia di Stato per la denuncia del caso. Com'è possibile che uno Stato permetta queste cose? Come evitare che questi malfattori proseguano nella loro ragionieristica progressione di furti a tappeto? Dov'è l'esercito che ci era stato promesso per pattugliare le zone a rischio? Dobbiamo tapparci gli occhi visto il limitato allarme sociale che caratterizza questi eventi e non dobbiamo pensare che uno di questi episodi possa degenerare in un fatto ben più grave? Com'è possibile che non vengano presi provvedimenti in merito? Franco. Leggo in questi giorni che Berlusconi si sta adoperando per tacitare le voci che vorrebbero già concluso il passaggio di Kakà al Real Madrid per evitare ripercussioni sull'imminente tornata elettorale. Al di là del fatto che il tentativo di insabbiamento non sembrerebbe propriamente riuscito, mi chiedo come mai il Premier si preoccupi dei ritorni che una vicenda extrapolitica possa avere sull'elettorato. Non erano i suoi quelli che affermavano a spada tratta che il controllo sui media non poteva influenzare il voto degli italiani? Oggi si scopre invece che persino una vicenda calcistica può cambiare le carte in tavola. E il conflitto di interessi che non esiste più? Se Kakà può diventare una variabile impazzita nell'agone politico, figuriamoci il controllo di una parte dei mezzi di informazione. In ultimo, i vari casi Noemi e voli di Stato. Mi sembra che il Premier dovrebbe adottare atteggiamenti più consoni a un capo di Stato. Se un fotografo lo pizzica a una festa di una 18enne, o se si viene a sapere che Apicella è un frequentatore abituale di voli di Stato, la colpa non è della sinistra né dei media, che danno comunque troppo risalto alla cosa, vedi caso Clinton negli Stati Uniti. La colpa è di un Premier che pensa di poter fare tutto e il contrario di tutto, grazie al mandato ricevuto dagli italiani. Stefano. A proposito dei voli di Stato di Berlusconi, immagino che il problema sia: il Presidente del Consiglio non si può approfittare di soldi dello Stato attraverso l'uso degli aerei per gli amici, ma siamo sicuri che questo meriti il clamore che gli si sta dando? Ad esempio, Quirinale, quanti sprechi di denaro pubblico? Costa il doppio della monarchia inglese. Non se ne parla. Sindacati, quanti rimborsi ricevono in base a provvedimenti di partiti amici con un macroscopico conflitto di interessi del passato? Magistrati. Un qualsiasi magistrato con la richiesta di intercettazioni o di traduzioni la cui utilità è tutta da dimostrare può sprecare più soldi di un volo Roma-Olbia. Referendum. Un esiguo partitino si è impegnato per fare un referendum costosissimo, 400 milioni di euro, assolutamente inutile visto che lo stesso promotore Di Pietro ha dichiarato di votare no. Presidente del Consiglio. Può emettere decreti che costano allo Stato milioni di volte il costo dell'aereo. E meno male, secondo me, ma se estende l'invito a volare ad alcuni amici, questo diventa un caso nazionale. Eccetera, eccetera. Pura ipocrisia. E allora? Tutti possono sprecare 1000 volte il costo contestato a Berlusconi e nessuno ne parla. Allora diciamolo. Dobbiamo denunciare, democraticamente si intende, tutti gli sprechi fatti da chiunque abbia il cognome che inizia per Berlu e finisca per sconi. Ammettete che la cosa fa un po' schifo. Personalmente ho lo stomaco che si rivolta. Roberto. Scusate, ma D'Alema, che parla di aerei di Stato usati impropriamente, non abitava nelle case dell'INAIL in centro a Roma con l'affitto di una casa popolare? Fulvio. Da molto tempo sono convinto che Bin Laden sia una sorta di marionetta massmediatica inventata dagli Stati Uniti per farle intervenire tutte le volte che ne ravvisano la necessità, per ridimostrare l'esistenza del terrorismo e del suo capo, per giustificare il sangue che scorre a torrenti in una zona che va dall'Iraq al Pakistan, per ridestare il terrore in tutto il mondo occidentale e compattare l'opinione pubblica, specialmente quella americana, attorno alle scelte del governo dell'impero. Ebbene, il fatto che il discorso di Obama, una novità assoluta per il contenuto di svolta rispetto alla linea di esportazione della democrazia con i bombardamenti di Bush, sia stato contrappuntato dal minaccioso proclama dell'inafferrabile primula del terrorismo, ha tolto verità e autenticità all'apertura verso l'Islam del giovane presidente americano che, mentre tracciava orizzonti di pace e di rasserenamento del mondo, veniva doppiato al contrario dall'icona che rappresenta il male. Mentre si cancella lo scontro di civiltà, qualcosa richiama teatralmente all'esistenza del terrorismo, che naturalmente deve essere estirpato. Se aggiungo a questo il richiamo di Obama all'11 settembre, che è un'impostura tuttora spacciata quale spartiacque della storia e causa della guerra senza quartiere agli stati canaglia, ai talebani, a quanti sfuggono alla sottomissione diretta o indiretta degli Stati Uniti, il mio entusiasmo per il suo discorso davanti a una platea selezionata dal feroce aguzzino moderato Mubarak, fatta da quanti si sono arricchiti con un regime filo occidentale, formalmente democratico ma sostanzialmente monarchico, faraonico, ripeto, il mio entusiasmo si affievolisce, anche se non vuole spegnersi dal momento che non è giusto avere pregiudizi e bisogna sempre sperare in una leadership che si propone dialogante, costruttiva e rispettosa. Pietro. Ho sentito il discorso del Cairo di Barack Hussein Obama. Mi è piaciuto moltissimo, mi sono anche un po' commosso e poi ho pensato, ha proprio detto quello che penso io. Non fraintendetemi, non sono così presuntuoso da sentirmi all'altezza del presidente Obama. Io sono una persona più o meno normale, che cioè vorrebbe la pace ma non è pacifista a oltranza. È tollerante ma non oltre il limite da tollerare l'arbitrio altrui. Ateo ma che apprezza chi professa sinceramente una religione. Quello che intendo è che l'eccezionalità di Obama è aver detto queste e tante altre cose non da uomo qualunque, ma ricoprendo la carica di presidente degli Stati Uniti. Ha quindi, secondo me, dimostrato un coraggio che ne fa uno statista vero e non solo un politico. Ha dato voce ai suoi pensieri, anche se questi possono risultare ostici nella sua nazione e a qualche nazione alleata. Eletto con la maggioranza dei voti, interpreta questa maggioranza senza farsi costringere, ma anche senza imporsi imperiosamente, bensì spiegando le sue tesi con chiari ragionamenti. Dimostra conoscenza della storia, della geografia, della religione. Dovrebbe essere scontato per un presidente, ma non è quasi mai stato così. Le sue frasi sono chiare e non si prestano ad ambiguità. Sentendolo, mi sono tornate alla mente le speranze del 1989, anno della caduta del muro di Berlino. Speranze in gran parte andate deluse, ma forse perché io ho l'età che avrà Obama al termine del suo secondo mandato, se ci sarà. Sono contento di osare e di sperare ancora. Bravo Obama, normalissimo, eccezionale presidente. Ivo. Grazie Obama, perché hai avuto il coraggio di non essere politicamente corretto. Grazie per aver parlato del ruolo positivo delle religioni. Grazie per aver citato il Corano in lingua inglese. Grazie per aver detto Israele e Palestina. Grazie perché hai detto che le donne devono studiare con o senza il velo in testa. Grazie per aver detto che bisogna investire sui giovani e sulla scuola. Per aver fatto autocritica. Grazie per aver detto che la guerra è facile iniziarla, ma non altrettanto facile finirla. Grazie per aver parlato di integrazione. Grazie perché hai parlato di un mondo senza bombe atomiche da costruire insieme. Grazie per aver detto tolleranza. Andrea. Da ormai 7 anni non seguo più il calcio in modo assiduo, perché non mi riconosco più in questo calcio, nei confronti del quale provo soltanto delusione e disamore. ma dopo aver visto alcuni DVD sui campionati del decennio 80-90, confesso di aver provato stupore nel constatare quanto quel mondo, che pure cronologicamente così vicino, sia distante da quello attuale. Ho provato una profonda nostalgia per un qualcosa che per motivi anagrafici non ho mai vissuto. Si può rimpiangere ciò che non si è mai conosciuto né vissuto? Io credo di sì, e non solo per inclinazione caratteriale. Questa nostalgia, mista ad incredulità, mi avvolge puntualmente rivedendo in ordine sparso il ciclo del Napoli di Maradona, la Juve di Platini, le facce pulite dei giocatori, il Verona di Bagnoli, neocampione d'Italia, le scanzonate interviste di Galeazzi in campo prima, durante e dopo le partite, la meravigliosa Samp di Vialli e Mancini. La scelta degli anni Ottanta come esempio positivo del calcio non è casuale. È a cavallo tra gli 80 e i 90, decennio in cui si è venuta a creare quella che io ritengo una frattura irreversibile nel mondo del calcio. Il punto di non ritorno, con lo spaventoso incremento del divario economico tra le grandi e le provinciali, l'ingresso definitivo delle televisioni quali vere padrone del calcio, le folli campagne acquisti, la morte dei vivai, la riforma delle coppe europee. Quest'ultimo aspetto merita, a parer mio, una riflessione più approfondita. Dov'è finita la gloriosa Coppa delle Coppe? La competizione che, oltre all'indubbio fascino intrinseco, valorizzava le varie coppe nazionali. Che senso ha avuto progettare questa insulsa Champions League, dove si incontrano cani e porci in inutili e tediosi campionatini scontati, privi di pathos e di vero spettacolo? Se tutto ciò non bastasse, si è avuta persino la brillante idea di parcheggiare le escluse dai gironi Champions, quindi degli scarti a tutti gli effetti, nella già svalutata e defunta Coppa UEFA. È veramente avvilente constatare come dietro qualsiasi scelta da parte dei massimi organi del calcio ci sia sempre e solo la medesima ispirazione: il business. Francesco, provincia di Arezzo. Caro direttore, le vorrei raccontare una scena a cui ho assistito venerdì mattina sulla metropolitana di Milano. Alla stazione di Sesto Rondò è salita una signora sui 55 anni, con gambe ingessate e stampelle, che, non trovando posto a sedere, si è appoggiata alla staffa centrale del vagone. Poco dopo, vista l'indifferenza generale di ragazzini con zaino di scuola, uomini e donne ben vestite, tutti italiani, e rapiti dal giornale del metrò, una giovane mamma cinese si è alzata offrendole il proprio posto. In molti hanno visto la scena, ma in quel momento nessuno dei presenti ha lasciato trasparire la benché minima emozione. Tutti hanno proseguito imperturbabili le proprie letture. Se un giorno dovessero veramente creare dei vagoni per soli milanesi, io salirò sul vagone degli altri. Stefano. Egregio direttore, lei ha sempre detto di essere favorevole alla libera concorrenza e a tutto ciò che potrebbe aiutarla. Con questa premessa, che condivido in pieno, faccio una piccola proposta che potrebbe andare in questa direzione. Al GR delle 7 e al GR extra large delle 13, date il prezzo della benzina e del gasolio di alcune marche popolari in Italia e fornite la variazione, percentuale o assoluta che sia, rispetto al giorno precedente, la settimana precedente e il mese precedente. In questo modo ci sarà la percezione dell'andamento del prezzo dei carburanti e potreste mettere in concorrenza i vari venditori, o dimostrare che concorrenza non c'è. Luigi. Gentile Luigi, grazie per la sua proposta, ma credo che dopo qualche giorno gli ascoltatori si annoierebbero a sentire numeri necessariamente parziali e limitati per questione di tempo. Ci sono infatti molti altri mezzi per informarsi sui prezzi della benzina. Nonostante tutto, il mercato dei carburanti è abbastanza aperto e trasparente. I prezzi sono riportati all'entrata delle stazioni di servizio, sulle autostrade. Ci sono cartelli che indicano i prezzi dei distributori successivi. Sui siti internet, iniziando da quello del Ministero per lo Sviluppo Economico, è possibile trovare indicazioni sull'andamento dei prezzi nelle singole città. La sua lettera, peraltro, solleva un problema molto sentito, quello della concorrenza in un settore come quello petrolifero dominato dalle grandi compagnie italiane multinazionali. Ma, caro Luigi, la concorrenza non è come la virginità, o c'è o non c'è più. La concorrenza perfetta esiste solo nei libri di economia, Compito delle regole e delle istituzioni di controllo è quello di evitare la formazione di monopoli e di posizioni dominanti sul mercato. Per questo, al mercato della benzina sono stati imposti doveri di trasparenza dei prezzi. La concorrenza non è mai abbastanza, ma spetta anche ai consumatori, come molti fanno, informarsi e decidere, premiando chi offre i migliori servizi a minor prezzo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci